forse inadatto è l'atmosfera terrestre, il respiro nebulose di pensieri dense. Mi sento un'assenza, una distorsione del reale, solo la gravità mi tiene appiccicato a questo pianeta. Forse non adatto alla vita sociale, chiudo l'udito ad ogni parola del cazzo. Mi sento un bastardo, un intruso deviato. Solo la notte con il suo freddo di calma mi fa sentire vivo. Forse avrei bisogno di un tocco di caldo, di umana presenza, di un soffio di labbra, di un abbraccio forte a stritolare.